Provate a partire da una foglia chiara, 4 atomi di azoto, e una foglia scura, 2 atomi di azoto. Avete raggiunto la quota minima di azoto necessaria, così? Se non l'avete raggiunta, pensate, quale foglia potete aggiungere per aumentare il totale senza superare il limite massimo di atomi di azoto?